Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. È un dato privo di ogni rilevanza statistica, ma comunque, per scrivere questo articolo ho parlato di Limonov con più di 30 persone. Sconosciuti che mi hanno dato un passaggio, perché a Mosca tutti fanno i tassisti abusivi, o amici appartenenti a quello che con molta prudenza si potrebbe definire l'ambiente radical chic russo. Artisti, giornalisti, editori, gente che compra mobili IKEA e legge l'edizione russa di Elle. Non degli esaltati, tutt'altro. Eppure nessuno mi ha parlato male di Limonov. Nessuno ha pronunciato la parola fascismo. E quando dicevo però quelle bandiere, quegli slogan, alzavano le spalle e mi giudicavano una mamoletta. Era come se avessi dovuto intervistare tutti insieme Ullebeck, Lou Reed e Combendy, 2 settimane con Limonov, che fortuna! Il che però non significava affatto che queste ragionevoli persone voterebbero per lui. Non più di quanto i francesi, immagino, voterebbero per Ullebeck se ne avessero l'occasione. Ma amano il suo personaggio sul Fureo, ammirano il suo talento e la sua impudenza, e i giornalisti, che lo sanno, parlano continuamente di lui. Insomma, Limonov è una star. Lo accompagno al ricevimento organizzato dalla radio Ekomovsky, uno degli eventi mondani della stagione. Lui si porta dietro i suoi gorilla, ma anche la sua nuova moglie Yekaterina Volkova, una giovane attrice che deve la propria fama a una serie televisiva. Limonov e la moglie sembrano conoscere tutta la crème politico-mediatica che affolla quella serata. Nessuno è più fotografato e festeggiato di loro. Mi piacerebbe molto che Limonov mi proponesse di unirmi a loro per la cena, ma non lo fa. Non mi invita nemmeno nell'appartamento in cui Yekaterina vive con il figlio, perché vengo a sapere quella sera hanno un figlio di 8 mesi. Peccato. Mi sarebbe piaciuto vedere il luogo in cui si riposa il guerriero tra un nascondiglio e l'altro. Mi sarebbe piaciuto sorprenderlo nel ruolo spiazzante in lui di padre di famiglia. Soprattutto mi sarebbe piaciuto conoscere meglio Yekaterina, che è deliziosa e manifesta una cordialità che credevo esclusiva delle attrici americane. Ride molto, si stupisce di tutto ciò che le dite e vi pianta in asso quando passa uno più importante di voi. Ho comunque la possibilità di chiacchierare con lei 5 minuti davanti al buffet. Quanto basta perché mi racconti con ingenua freschezza che prima di incontrare Edouard non si interessava di politica, ma che ora ha capito. La Russia è uno stato totalitario. Bisogna lottare per la libertà, partecipare alle marce del dissenso, nelle quali sembra mettere la stessa serietà che nei suoi seminari di yoga. Il giorno dopo leggo in una rivista femminile un'intervista in cui Yekaterina elargisce consigli di bellezza e posa teneramente abbracciata a quel celebre dissidente di suo marito. Mi lascia sbalordito il fatto che a una domanda di politica ripeta esattamente quello che ha detto a me, criticando Putin con la poca prudenza con cui da noi un'attrice impegnata nella difesa dei sans-papiers può criticare Sarkozy. Provo a immaginare quello che sarebbe successo sotto Stalin o anche sotto Brezhnev, nell'ipotesi ad ogni modo inverosimile, in cui fossero stati pubblicati discorsi del genere. E mi dico che il totalitarismo putiniano non è poi tanto male, c'è di peggio. Fatico a conciliare queste immagini. Lo scrittore teppista che ho conosciuto un tempo, il guerrigliero braccato, l'uomo politico responsabile, la star a cui le rubriche di gossip dedicano articoli entusiasti. Penso che per vederci più chiaro devo incontrare i militanti del suo partito, i Nazbol di base. I crani rasati che mi accompagnano tutti i giorni dal capo con una volga nera e che all'inizio mi spaventavano un po' sono simpatici, ma non sono molto loquaci. O forse sono io che non ci so fare. Al termine della conferenza stampa con Kasparov ho abbordato una ragazza semplicemente perché era carina, chiedendole se fosse una giornalista. Mi ha risposto di sì, insomma, lavorava per il sito internet del Partito Nazional Bolscevico. Molto graziosa, posata, ben vestita. Era una Nazbol. Tramite questa piacevole ragazza incontro un ragazzo altrettanto piacevole, il responsabile, clandestino, della sezione di Mosca. I lunghi capelli raccolti in una coda, l'espressione aperta, cordiale, non sembra per niente un fascio, piuttosto un militante antiglobalizzazione o un autonomo tipo gruppo di Tarnac. Nel suo appartamentino in periferia ci sono dischi di Manu Chao e alle pareti quadri dipinti dalla moglie nello stile di Jean-Michel Basquiat. Chiedo: lei condivide la tua battaglia politica? Certo, mi risponde. Del resto è in galera. Era una dei 39 del grande processo del 2005, quello seguito dalla Palkovskaya. Lo dice pieno di orgoglio, con un largo sorriso. E se non è in galera anche lui, non è per colpa sua, soltanto Menienie e Pavieslo, a me è andata male. Un'altra volta, forse, non tutto è perduto. Raggiungiamo insieme il tribunale della sezione urbana di Taganskaya, dove si dà il caso che quel giorno si tenga il processo ad alcuni Nazbol. Sala minuscola, imputati chiusi in una gabbia con le manette ai polsi, e sui tre banchi del pubblico amici loro, tutti appartenenti al partito. Dietro le sbarre sono in sette. Sei ragazzi, dall'aspetto piuttosto eterogeneo. Si va dallo studente musulmano con barba al working class hero in tuta da ginnastica. E una donna, un po' più matura, con i neri capelli arruffati, pallida, piuttosto bella, nel genere insegnante di storia di sinistra che si arrotola le sigarette a mano. Sono accusati di uliganismo, cioè di scontri con i giovani putiniani. Ferite leggere su entrambi i fronti. A domanda rispondono che hanno cominciato gli altri per primi e che nonostante ciò non sono stati perseguiti, che quello è un processo esclusivamente politico e che se devono pagare per le loro opinioni non c'è problema, pagheranno. La difesa sottolinea che gli imputati non sono hooligan ma studenti seri, con buoni voti, e hanno già fatto un anno di carcerazione preventiva, il che dovrebbe bastare. L'argomento non convince il giudice. Sentenza per tutti, 2 anni. Quando le guardie li portano via, i condannati escono ridendo, mostrando il pugno e dicendo «Dos mierti, fino alla morte». Gli amici li guardano con invidia. Sono degli eroi. Ce ne sono a migliaia, forse a decine di migliaia come loro, in rivolta contro il cinismo diventato ormai la religione della Russia, e tributano a Limonov un autentico culto. Quest'uomo, che potrebbe essere loro padre e per i più giovani addirittura loro nonno, ha avuto la vita avventurosa che a 20 anni sognano tutti, è una leggenda vivente. E il cuore di questa leggenda, ciò che invoglia tutti a imitarlo, è l'eroismo cool di cui ha dato prova durante la prigionia. Limonov è stato a Lefortovo, la fortezza del KGB, che nella mitologia russa non ha nulla da invidiare ad Alcatraz. È stato in un campo di lavoro sotto il regime più duro e non si è mai lamentato, non si è mai piegato. È riuscito non soltanto a scrivere 7-8 libri, ma ad aiutare concretamente i compagni di cella, che hanno finito per considerarlo un vero boss e una specie di santo. Il giorno in cui è stato scarcerato, detenuti e guardie hanno fatto a gara per portargli la valigia. Quando ho chiesto a Limonov come fosse la prigione, sulle prime si è limitato a rispondere «Narmalla», che in russo vuol dire «ok, nessun problema». E solamente in un secondo momento mi ha raccontato questa storiella. Da Lefortovo lo avevano trasferito al campo di Engels, sul Volga, un istituto modello nuovo di zecca, nato dai pensamenti di architetti ambiziosi, che viene mostrato volentieri ai visitatori stranieri perché si facciano un'idea lusinghiera dei progressi compiuti in Russia in tema di condizione carceraria. In realtà, i detenuti di Engels chiamano il campo Eurogulag. E Limonov assicura che le finezze architettoniche non rendono la vita al suo interno meno dura che nelle classiche baracche circondate da filo spinato, anzi. Fatto sta che nel campo i lavabi, costituiti da una lastra di acciaio sormontata da un tubo di ghisa, dalla linea pura e sobria, sono identici a quelli di un albergo, progettato dal designer Philip Stark, in cui Limonov è stato ospitato dal suo editore americano quando è passato per New York l'ultima volta, alla fine degli anni Ottanta. La cosa lo ha fatto riflettere. Nessuno dei suoi compagni di prigionia era in grado di fare lo stesso paragone e neanche nessuno degli eleganti clienti dell'elegante albergo newyorkese. Si è chiesto se ci fossero al mondo molti altri uomini come lui, Eduard Limonov, la cui esperienza comprendeva universi così differenti come quello del detenuto comune in un campo di lavori forzati sul Volga e quello dello scrittore alla moda che si muove in ambienti firmati Philip Stark. No, ha concluso. Probabilmente no. E ne ha tratto motivo di un orgoglio che comprendo e che è appunto quello che mi ha spinto a scrivere questo libro. Io vivo in un paese tranquillo, in fase di declino. dalla mobilità sociale ridotta. Nato in una famiglia borghese di un quartiere elegante, abito ora in una zona di Parigi decisamente radical chic. Figlio di un alto dirigente e di una storica famosa, scrivo libri e sceneggiature, mia moglie è giornalista. I miei genitori hanno una casa di vacanza sull'Île de Ré e a me piacerebbe comprarne una nel Gard. Non che questo sia un male o limiti le possibilità di arricchimento dell'esperienza umana, ma, insomma, dal punto di vista geografico e socioculturale, non si può dire che la vita mi abbia condotto molto lontano dal mio punto di partenza. E lo stesso vale per la maggior parte dei miei amici. Limonov, invece, è stato teppista in Ucraina, idolo dell'underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani e adesso, nell'immenso bordello del dopocomunismo, vecchio capo carismatico di un partito di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare anche una carogna. Io sospendo il giudizio. Comunque, dopo aver trovato semplicemente divertente l'aneddoto dei lavabi di Saratov, ho pensato che la sua vita romanzesca e spericolata raccontasse qualcosa non solamente di lui, Limonov, non solamente della Russia, ma della storia di noi tutti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Qualcosa, d'accordo, ma cosa? Comincio questo libro per scoprirlo. La storia ha inizio nella primavera del 1942, in una città sulle rive del Volga che prima della rivoluzione si chiamava Rastiapino e dal 1929 si chiama Dzerzhinsk. Il nuovo nome è un omaggio a Felix Dzerzhinsky, bolscevico della prima ora e fondatore della polizia politica in seguito denominata CECA, GPU, NKVD, KGB e oggi FSB. In questo libro la incontreremo di nuovo sotto i tre ultimi minacciosi acronimi, ma al di là dei nomi assunti nei vari periodi, i russi continuano a chiamarla in modo ancora più lugubre, organi, gli organi. In furia la guerra, l'industria pesante è stata smantellata e trasferita dal teatro delle operazioni nelle retrovie. Vista la situazione a Dzerzhinsk, una fabbrica di armamenti impiega tutta la popolazione per sorvegliare la quale vengono mobilitate squadre dell'NKVD. È un'epoca all'insegna dell'eroismo e della durezza. Un operaio che si presenta al lavoro con 5 minuti di ritardo viene mandato davanti al consiglio di guerra. I cechisti arrestano, processano e all'occorrenza giustiziano con una pallottola alla nuca. Una notte in cui alcuni Messerschmitt in ricognizione sul basso Volga sganciano bombe sulla città, uno dei soldati di guardia alla fabbrica illumina con la pila la strada una giovane operaia uscita tardi, che si affretta verso un rifugio. La ragazza incespica, si aggrappa al braccio del soldato, lui nota un tatuaggio sul suo polso. Nell'oscurità rischiarata dai bagliori degli incendi, i loro volti si avvicinano, le labbra si toccano. Il soldato, Beniamin Sabienka, ha 23 anni. Proviene da una famiglia di contadini ucraini. Abile elettricista, è stato arruolato nell'NKVD che seleziona il personale migliore in ogni campo. Sicché invece di finire al fronte come la maggior parte della sua classe di leva, è stato destinato di guardia a una fabbrica di armamenti nelle retrovie. Si trova lontano da casa. In Unione Sovietica è la regola, non l'eccezione. Fra deportazioni, esili e trasferimenti in massa di popolazioni, la gente viene spostata di continuo. E le possibilità di vivere e morire nel luogo in cui si è nati sono praticamente nulle. Raisa Zibina, invece, è originaria di Gorki, ex Nizhny Novgorod, dove il padre era direttore di un ristorante. In Unione Sovietica non esistono proprietari né gestori di ristoranti, ma direttori. Non si tratta di un'attività commerciale che si possa avviare o rilevare, ma di un posto di lavoro a cui si viene assegnati. E non è un brutto posto. Disgraziatamente il padre di Raissa è stato rimosso per malversazione e spedito nel battaglione disciplinare sul campo di Leningrado, dove è morto poco tempo prima. Questa è una macchia sulla famiglia e in quei tempi e in quel paese una macchia sulla famiglia può rovinare una vita. Che i figli non debbano pagare per le colpe dei padri a noi sembra un pilastro della giustizia, ma nella realtà sovietica non è nemmeno un principio formale, qualcosa da poter invocare anche solo in teoria. I figli di trotskisti, i figli di kulaki, come vengono chiamati i contadini benestanti, o i figli di privilegiati nel regime zarista sono destinati a una vita da proscritti, banditi dai pionieri, dall'università, dall'armata rossa, dal partito, e hanno qualche possibilità di sfuggire alla proscrizione soltanto rinnegando i genitori e dando prova poi del massimo zelo. E siccome dare prova del massimo zelo significa denunciare il prossimo, i migliori collaboratori degli organi saranno le persone dalla biografia non irreprensibile. Può darsi che, nel caso del padre di Raissa, la morte sul campo dell'onore abbia rimesso un po' le cose a posto. Fatto sta che gli Zibin, come i Sabienka, sono passati attraverso il grande terrore degli anni 30 senza incidenti. Probabilmente erano pesci troppo piccoli, ma questa fortuna non impedisce alla giovane Raissa di vergognarsi del padre disonesto, come del tatuaggio che si è fatta fare quando frequentava la scuola tecnica. In seguito cercherà di cancellarlo, strofinandosi il polso con acido cloridrico, perché soffre di non poter andare a passeggio con abiti a maniche corte e dover somigliare lei, moglie di un ufficiale, a una poco di buono. La gravidanza di Raissa procede quasi di pari passo con l'assedio di Stalingrado. Concepito nel terribile maggio del 1942, al tempo delle più cocenti sconfitte, Edouard nasce il 2 febbraio 1943, 20 giorni prima della capitolazione della Sesta Armata tedesca e del rovesciamento delle sorti della guerra. Gli ripeteranno che è un figlio della vittoria e che sarebbe nato in un mondo di schiavi se gli uomini e le donne del suo popolo non avessero sacrificato la vita per non abbandonare al nemico la città che portava il nome di Stalin. Più tardi la gente parlerà male di Stalin, dirà che era un tiranno, si compiacerà nel denunciare il terrore che regnava sotto di lui. Ma per quelli della generazione di Edouard, Stalin rimarrà il capo supremo dei popoli dell'Unione nel momento più tragico della loro storia, l'uomo che ha sconfitto i nazisti ed è stato capace di un gesto degno di Plutarco. Quando l'alto comando tedesco gli propose uno scambio tra suo figlio, il tenente Jakov Djugasvili, caduto prigioniero, e il feldmaresciallo Paulus, uno dei grandi capi militari del Reich che i russi avevano catturato davanti a Stalingrado, Stalin rispose altero che non scambiava un feldmaresciallo con un semplice tenente. Jakov si suicidò, gettandosi contro il filo spinato elettrificato del campo in cui era rinchiuso. Dalla prima infanzia di Edouard vengono a galla due aneddoti. Uno, tenero, è quello preferito dal padre. Il neonato, che in mancanza di culla è stato adagiato in una cassa di granate, succhia come se fosse un ciuccio una coda di aringa e sorride beato. «Maladiez!» esclama Beniamin. «Bravo piccolo! Si troverà bene dappertutto!» L'altro, meno piacevole, lo racconterà Issa. La donna è andata in città portandosi dietro il bambino, quando comincia un bombardamento della Luftwaffe. I due trovano riparo in una cantina con una decina di concittadini, alcuni terrorizzati, altri apatici. Le pareti e i pavimenti tremano. I rifugiati tendono l'orecchio per indovinare a quale distanza cadano le bombe, quali edifici distruggano. Il piccolo Edouard si mette a piangere, attirando l'attenzione e poi l'ira di un tizio che spiega con voce sibilante come i crucchi dispongano di tecniche ultramoderne per individuare i bersagli animati e siano capaci di orientarsi seguendo anche i suoni più deboli e che il pianto del bambino li farà uccidere tutti. L'uomo aizza gli altri al punto che Raissa viene buttata fuori ed è costretta a cercarsi sotto le bombe un altro rifugio. Furibonda, la donna dice a se stessa e al suo bambino che tutto ciò che gli potranno raccontare sull'aiutarsi gli uni con gli altri, sulla solidarietà e la fratellanza sono balle. La verità, non dimenticarlo mai, Edichka, è che gli uomini sono dei vigliacchi, delle carogne, e che se non vuoi finire ammazzato devi essere pronto a colpire per primo. Al termine della guerra, le città non si chiamano più città, ma concentrazioni di popolazione. E la giovane famiglia Sabienka conduce la propria vita, senza mai poter scegliere la destinazione, tra casermoni e baraccamenti in diverse concentrazioni di popolazione lungo il Volga, prima di stabilirsi, nel febbraio 1947, a Kharkov, in Ucraina. Kharkov è un grosso centro industriale ferroviario, ragione per cui è stato oggetto di una violenta contesa fra russi e tedeschi, che l'hanno conquistato, riconquistato, occupato a turno, massacrando negli abitanti e lasciando alla fine della guerra soltanto una distesa di macerie. L'edificio costruttivista in calcestruzzo di Via dell'Armata Rossa, in cui vivono gli ufficiali dell'NKVD e le loro famiglie, indicate come persone a carico, si affaccia su quella che è stata l'imponente stazione centrale. Ora ridotta a un cumulo di pietre, mattoni e metallo, recintato da una staccionata che è vietato scavalcare, perché fra le macerie si trovano, oltre ai cadaveri di soldati tedeschi, mine e granate. È così che un ragazzino ha perso una mano. Nonostante quel precedente, la banda di scapestrati cui Edward si aggrega intensifica le spedizioni fra le rovine alla ricerca di cartucce, per poi versarne la polvere sui binari del tram e provocare botti, fuochi d'artificio e una volta persino un deragliamento divenuto leggendario. Dopo cena, i più grandi raccontano storie spaventose, di crocchi morti che si aggirano fra le rovine e aspettano al varco gli imprudenti, di pentole immensa sul fondo delle quali si trovano dita di bambini, di cannibali e di traffico di carne umana. In quei tempi si soffre la fame. Si mangia soltanto pane, patate e soprattutto kasha, la pappetta di grano saraceno che compare a ogni pasto sulla tavola dei russi poveri e qualche volta su quella dei parigini benestanti come me, che mi vanto di saperla fare bene. Il salame è un lusso rarissimo. Edward ne va pazzo, al punto che sogna da grande di fare il salumiere. Niente cani, niente gatti, niente animali domestici verrebbero mangiati. In compenso abbondano i topi. 20 milioni di russi sono morti in guerra, ma altri 20 milioni affrontano il dopoguerra senza un tetto. La maggior parte dei bambini non ha più padre, la maggior parte degli uomini ancora vivi è invalida. A ogni angolo di strada si incrociano persone che hanno perso un braccio o una gamba o entrambe le gambe. Si vedono ovunque bande di ragazzini abbandonati a se stessi, ragazzini i cui genitori sono morti in guerra o diventati nemici del popolo, ragazzini affamati, ragazzini ladri, ragazzini assassini, regrediti allo stato selvatico, che si spostano in orde pericolose per i quali è stata abbassata a 12 anni l'età in cui si diventa responsabili di fronte alla legge, vale a dire l'età in cui si può essere condannati a morte. Il bambino ammira suo padre. Gli piace guardarlo il sabato sera mentre lubrifica l'arma di servizio. Gli piace vederlo quando indossa la divisa e niente lo rende felice quanto avere il permesso di lucidargli gli stivali. Vi affonda il braccio fino alla spalla. Spalma la cera con cura, usa in ogni fase dell'operazione spazzole e panni particolari, tutto un campionario di arnesi che, quando Beniamin parte in missione, occupano metà della valigia. Il figlio li spacchetta, li impacchetta e se ne prende cura in attesa del gran giorno in cui avrà anche lui lo stesso armamentario. Ai suoi occhi, gli unici uomini degni di questo nome sono i militari e gli unici bambini frequentabili i figli di militari. Edward non ne conosce altri. Le famiglie di ufficiali e sottufficiali che abitano nel palazzo dell'NKVD, in via dell'Armata Rossa, si frequentano solo fra loro e hanno scarsa considerazione per i civili, individui frignoni e indisciplinati, che si fermano senza preavviso in mezzo al marciapiede, costringendo a modificare la sua traiettoria, il soldato che invece cammina con andatura regolamentare, costante e sostenuta. 6 chilometri all'ora. Così camminerà Edward sino alla fine dei suoi giorni. In via dell'Armata Rossa, Per addormentare i bambini si raccontano storie di quella guerra che i russi non chiamano come noi Seconda Guerra Mondiale, ma Grande Guerra Patriottica. E i sogni dei piccoli sono pieni di trincee che franano, di cavalli morti, di compagni a cui lo scoppio di una granata porta via la testa proprio sotto i tuoi occhi. Queste storie eccitano Edward, però gli sembra di vedere il padre un po' a disagio durante i racconti della madre, nei quali non compaiono mai né lui né le sue imprese, ma quelle dello zio, il fratello di Raissa. E il bambino non ha il coraggio di chiedere: «E tu, papà, sei stato in guerra anche tu? Hai combattuto?» No, lui non ha combattuto. La maggior parte dei suoi coetanei ha visto la morte in faccia. «La guerra», scriverà più tardi il figlio, «li ha morsi fra i propri denti come quando si saggia una moneta. E loro, che non si sono mai piegati, sanno di non essere moneta falsa. Suo padre no. Lui non ha visto la morte in faccia. Ha fatto la guerra nelle retrovie e la moglie non perde quasi mai l'occasione di ricordarglielo». Raissa è una donna dura, compresa della propria posizione sociale, nemica di ogni forma di tenerezza. Prende sempre le difese dei rivali contro Edward. Se questi è stato picchiato, non lo consola ma si congratula con l'aggressore. Così il figlio diventerà un uomo e non una femminuccia. Uno dei primi ricordi di Edward è di essere stato colpito a 5 anni da una grave forma di otite. Gli usciva pus dalle orecchie e rimase sordo parecchie settimane. Per raggiungere l'ambulatorio in cui la madre lo stava portando, era necessario attraversare i binari della ferrovia. Senza sentirlo, Edward vide arrivare il treno, il fumo, la velocità, il mostro di acciaio nero e, colto improvvisamente dalla irrazionale paura che la madre volesse gettarlo sotto le ruote, iniziò a urlare: «Mamma, mammina mia, non buttarmi sotto il treno, per favore, non buttarmi sotto il treno!» Nel raccontare l'episodio, Edward sottolinea l'importanza di quel «per favore», come se soltanto la buona educazione avesse fatto desistere la madre dal suo funesto disegno. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.